A tutto gas. Un'altra radio. Roma, radio Roma. Questo lunedì a tutto gasp, e se ci ascoltate venerdì su Fuso Radio a tutto gasp. Roma, un'altra radio. Roma, un'altra radio. Roma, la rifaccio partire? La rifaccio di nuovo? Roma, un'altra radio. Roma, un'altra radio. Roma, un'altra radio. Roma. A tutto gas. Un'altra radio Roma. Punto. Buonasera a tutti quanti. Stiamo facendo una cosa fuori dai limiti. Questa sera, come tutte le sere, siamo ancora in onda. Noi dell'Altra Radio Roma stiamo cercando di andare da tutte le parti, con tutte le parti e con tutti i nostri mezzi. Questo appuntamento di A Tutto Gasp comprende una classifica di 20 canzoni tratte nel mondo della Creative Commons, perché questa web radio, ricordatevelo, che tratta solo musica Creative Commons. Alla 20ª posizione della classifica di Giamondo troviamo Freeze Body Shop, che è il brano che ci stiamo ascoltando in questo momento, Brand New Wings. Ma questo appuntamento di Nartra Radio Roma, come al solito, vuole trattare argomenti, situazioni, tutto quello che ci passa per la mente, come al solito, nella nostra maniera, ossia senza senso e a svambera. Quindi io non farei nient'altro che dirvi che andiamo avanti con quella che è questa classifica così fantomatica delle musiche Creative Commons, delle tracce più ascoltate in questa settimana. Andiamo avanti con l'artista successivo. Questo artista è un artista veramente forte. Lui risponde al nome di Ignacio Nuance e ci presenta un brano dal titolo Rapa Nui. Si trova alla 19ª posizione di Giamondo e voi lo state ascoltando qui su Un'altra Radio Roma. Amici dell'Altra Radio Roma, ci stiamo ascoltando quella che è la classifica di Giamondo sulle 20 migliori canzoni più ascoltate dalla gente che frequenta le Creative Commons. Ci stiamo ancora ad ascoltando sotto la mia voce Ignacio Nunuens con Rapa Null, un bel brano, un bel modo di fare musica. Nel frattempo sto cercando di regolare quelli che sono i volumi della mia voce e della musica, ma non ci sto riuscendo perché sto utilizzando due piattaforme, una è quella di Speaker e l'altra è quella di 1000 Mics. Comunque, per farla più veloce, voi andate su nartraradioroma.org e ve la ascoltate tranquilli dal nostro bel sitarello. Dunque, vi dicevo in qualche modo volevamo parlare di qualcosa. Di che cosa? Della pirateria, sì, perché tra amici, tra conoscenti, stavamo discutendo appunto su quello che è la pirateria, il modo di fare pirateria in questo mondo esiste ancora una volta. Vedremo come. Andiamo avanti con quelle che sono i brani musicali che ci propone Giamendo, e alla 18ª posizione troviamo Alex Must qui su un'altra Radio Roma. Lui si trova esattamente alla 18ª posizione di questa classifica. Dicevamo, volevamo parlare un po' così della pirateria, di quello che è il mondo della pirateria. Con il termine di pirati ogni tanto e quasi sempre ci si immagina e si pensa a qualcosa di negativo, no? Tipo a qualcuno che vuole necessariamente farci uno sgarbo, o qualcuno che ha fatto un danno e non vuole pagare, come il pirata della strada, o tanti altri esempi negativi. Ma non è detto che questi siano così necessariamente negativi, e vedremo che cosa intendo andando avanti con questa fantomatica trasmissione su un'altra Radio Roma per tutti gli amici di Fuso Radio che l'ascolteranno in replica venerdì e per tutti voi che ve la state godendo in questo momento. Bene, allora andiamo avanti appunto con questa classifica. Senza dirvi nulla e senza presentarvi nessuno, io andrei a lanciarvi direttamente il pezzo, così a caso, tanto lui si trova alla posizione successiva, voi ve lo ascoltate e poi vi dirò chi era. Tra Radio Roma e Sterefante. The Star of the Country Down, lui era WWS Music e si trovava alla 17ª posizione di questo fantastico mondo delle classifiche più ascoltate su Giamendo. Ricordo, stiamo ascoltando una classifica che ha estrapolato Giamendo, non è la nostra, perché se fosse la nostra probabilmente gli artisti sarebbero diversi, sarebbero veramente diversi. Allora, proviamo a fare un piccolo ragionamento. Che cos'è la pirateria? È un'attività illegale di quei marinai denominati pirati, che abbandonano per scelta o per costrizione la precedente vita sui mercantili, abbordano, depredano e affondano le altre navi in alto mare, nei porti, sui fiumi e nelle insenature. Quindi i pirati, quando si tratta di pirateria marina, sappiamo tutti chi sono. Ma chi sono gli altri pirati? Lo scopriremo fra poco. Il sostantivo deriva dal latino pirata, piratae, maschile della prima declinazione, che a sua volta deriva dal greco peirates, dal verbo peiraomai, che significa fare un tentativo, provare un assalto. Bene, io mi fermerei qui. Fare un tentativo, provare un assalto. Perché questo mio ragionamento? Semplice, perché ultimamente, affacciandomi su Facebook o su altre piattaforme, ho notato un continuo, un aumentare desiderio di tornare indietro nel tempo, e c'è chi tira fuori alcuni statisti, c'è chi parla di alcune ideologie che non esistono più e si rincorre il passato cercando grandi condottieri per affidare quello che è la politica di oggi e del mondo di oggi. Bene, io credo che questa web radio in qualche modo un po' pirata lo sia. Perché? Perché produce e trasmette musica Creative Commons, musica che utilizza licenze diverse, che tenta e prova un assalto a un approccio diverso. E noi, come web radio, chiaramente ci stacchiamo un po' da quelle che sono le forme tradizionali e vi presentiamo quelli che sono i nostri pensieri, i nostri artisti, la nostra musica. Ecco, forse è meglio che parliamo di musica. Utopia, se nell'arte. Utopias en el Aren di Passaiero Sin Billet, alla 16ª posizione di questa fantastica classifica. Dunque, per tutti gli amici che ci stanno seguendo attraverso Spreaker, vorrei far presente che fra circa poco tempo si concluderà questa trasmissione. Io tenterò di rimetterla in moto. Voi, se ci volete continuare ad ascoltare, perché vi sta magari piacendo con quello che state ascoltando, insomma, in qualche modo vi stiamo facendo compagnia, potete seguirci su www.nartraradioroma.org. E io farei così, passerei alla 15ª posizione lanciandoci anche magari un bel pezzo di jingle. Siete pronti? Radio Roma, la più grossa radio, ti manda su un altro pianeta. A caso. Per il nuovo anno. Dev Invernon con Plang and Play. Questo è il brano che ci stiamo ancora ascoltando sotto la mia voce. Un bell'artista che viene da Madrid, dalla Spagna, ed è veramente, veramente forte. Per tutti gli amici e le amiche di Spreaker non mi resta che salutarvi, avete ancora 12 secondi, ma se volete potete continuarci a seguire, ripeto, su www.nartraradioroma.org. Io proverò nuovamente a collegarmi con Spreaker fra qualche minuto. Inizia così dalla Spagna quest'artista con un strumento alla band sonora piano soundtrack che trovate chiaramente su Jamendo. Inizia così con il mare e ci accompagna con le sue note dolci, tenere, nel punto più tenero della notte, nel punto più dolce. Ma come al solito le cose vanno avanti. Avevo detto agli amici di Spreaker che ci saremmo interrotti per un momento e ci siamo riconnessi. Spiego il perché. Perché stiamo provando più piattaforme per vedere di riuscire a collegarci con più parti, più angoli del mondo. E mentre dicevo questo, guarda caso, mentre mi riconnetto tramite speaker, scompare la connessione su 1000 mics, ma siamo nuovamente in onda anche su 1000 mics. Amici, abbiate pazienza. Purtroppo le cose a volte non funzionano troppo bene. Allora andiamo avanti con quella che è la classifica di questa nottata, di questo appuntamento che, ripeto, è a tutto gasp, e andiamo ad ascoltarci un nuovo artista. Lui risponde al nome di Patrox e il brano è Angel of Peace. Ricordate che lo state ascoltando su un'altra Radio Roma. Pirateria nello spazio. Patrux, Patrux Angel of Peace, che ha un album pubblicato su Giamendo dal titolo Magic in Space, appunto è Patrux, e lui fa questo tipo di musica che a molte persone piace, piace veramente. Lui si trova alla 13ª posizione dei brani più ascoltati questa settimana sulla piattaforma musicale Creative Commons Giamendo. Quindi, detto questo, andiamo avanti con calma, con tranquillità e con la giusta rilassatezza, visto che ci troviamo all'inizio di una settimana molto molto tortuosa e fastidiosa. Perché? Perché il tempo cambia, non ci si capisce più nulla, perché troviamo politici che vengono a raccontarci cose che a volte ci vanno un po' strette, un po', perché qualche tempo fa siamo stati chiamati come cittadini a partecipare a un referendum per dire la nostra sul finanziamento pubblico ai partiti, ossia se dare dei denari ai partiti, e noi abbiamo detto di no. Io me lo ricordo, stavo lì e ho detto di no. Però poi che cosa è accaduto? All'improvviso quello che noi decidiamo non sempre viene mantenuto e rispettato. Tant'è vero che hanno fatto subito una legge, hanno ridato i soldi ai partiti. I partiti si sono presi i soldi per tantissimi anni. Quando noi siamo in crisi, chiediamo a loro di rinunciare a questi soldi, loro non gli va. Questa radio ha politica partitica, a qualche modo qualche voglia di dire la propria, e forse anche per questo siamo considerati una radio pirata. Ricorderei tutti gli amici quando in passato c'era la legge Bavaglio, che in qualche modo ci ha un po' castigato. A compiute grazie a Radio Roma. Nostra radio roma.org. Once there was a time when I lived at the edge of town, always wanting to move away, to live life on my own. But it's a long walk, it's a long walk home. Once there was a time when I lived at the edge of town. Kathleen, Kathleen, lei è Kathleen, viene dalla Germania, una voce veramente soffice, soave, soave. E la cosa che un po' mi ha stupefatto non è il fatto che lei si trovi alla 12esima posizione di questa classifica con il brano Long Walk Home, ma che ha una cosa come 22.052 ascolti per una sua canzone. Lei è in attività dal 1999, ha tre album su Jamendo, pubblicati su Jamendo, uno ha addirittura 70 recensioni. Insomma, un artista che viene dalla Germania, ripetono il nome, lei è Kathleen, e la trovate su Jamendo, un'altra fautrice della musica Creative Commons. Anche lei forse è un po' pirata come noi. Bene, andando all'undicesima posizione troviamo un brano che ci muove un po', si intitola One Nice Thing on Sunday, il brano di Ultra Cats. Disco a Nartra Radio Roma. Buon ascolto. Buon ascolto. Bene, cari amici e amiche, tutti quanti siamo veramente felici di conoscere artisti così come capita. Bene, questa è la classifica dei brani più ascoltati della settimana sulla piattaforma di Jamendo, che pubblicizza tutti artisti Creative Commons da tutte le parti del mondo. Il prossimo artista è un artista francese che inizia la sua attività, così dice, dal 2009. È un artista che però in qualche modo mi lascia un po' sbigottito, perché ha una cosa come 25 brani pubblicati appunto su Jamendo, 25 album pubblicati su Jamendo dal 2009. Il suo brano più ascoltato ha una cosa come 136.000 ascolti e deve essere un artistone. Si trova alla decima posizione di questa fantastica classifica dell'Artra Radio Roma e quindi di Jamendo. Lui risponde al nome di, permettete che riprendi tutto, Butterfly T, e ve lo state per ascoltare qui su un'altra Radio Roma, Fuso Radio a Roma. Lei ha computer, la tia Radio Roma. Un'altra Radio Roma.org. Alla decima posizione, The Enchanted Forest, Butterfly T. È un artista che prevalentemente adopera la propria arte musicale per i film e per documentari, come ben possiamo sentire, e si trova alla decima posizione dei brani più ascoltati su Jamendo. Un piccolo avviso per gli amici di Spreaker: perché sta per terminare il tempo a nostra disposizione. Come prima, sicuramente tenterò di riconnettermi. Chi ha voglia e fantasia di seguirmi con un po' di pazienza si riunirà fra qualche minuto su questa web radio fantasma. Pazzesca! Radio web! Bright alla nona posizione con Between the Worlds qui su un'altra radio Roma. Buon ascolto. eravamo sbagliati, quella era l'ottava posizione, ora ci andiamo a riascoltare la nona posizione, quella che non ci eravamo ascoltati prima, lui è Sean T. Vrying, al nono posto. Radio Roma, la più grossa radio, ti manda su un altro pianeta, a caso, per il nuovo anno. Termina così di getto ed inizia Eve Lane, che si trovava all'ottava posizione e nessuno lo ha spostato, lo abbiamo lasciato lì all'ottava posizione. Anche se vi devo dire una cosa su Sean T. Bright, lui è in attività dal 1976, è un fedele convinto delle Creative Commons, tant'è vero che ha una cosa come anche lui 25 album su Jamendo, che è la classifica che ci stiamo godendo quest'oggi. Detto questo, andiamo avanti con gli artisti successivi. Questo viene direttamente dalla Spagna, sono gli Epic Soul Factory, che potete trovare sia su Jamendo sia su Bandcamp, scusate, e anche su iTunes. Loro sono al settimo posto dei brani più ascoltati su Jamendo con Star of Bethlehem. Torniamo tutti a Natale. Radio Roma. Esterefante. Thank you. Veramente esterefante. Beh, cosa dire, quando il mondo ci gridava che eravamo dei pazzi, noi c'eravamo e dicevamo che le licenze Creative Commons potevano essere delle reali alternative alle musiche licenziate tradizionalmente come quelle della SIAE. Abbiamo spinto perché questo fosse avvenuto e finalmente in qualche modo all'inizio di quest'anno il governo ha liberalizzato le licenze e oggi ci troviamo tutti più contenti. E che cosa dirvi? Dirvi che cosa? Se siete schifati come noi della politica italiana, non andate a tirare fuori vecchi prototipi dal cassetto, soggetti di 100 anni fa, ideologie di 200 anni fa, non servono a nulla, non servono. Siate fiduciosi su voi stessi e perché non potremmo essere noi un nuovo cambiamento? Lele Rambelli è di Sant'Agata sul Santerno italiano, è su Giamendo da una vita, ha una marea di album, propone un jazz fondamentalmente con chitarra, dance, strumentale, si trova alla sesta posizione dei brani più ascoltati di questa settimana e ve lo potete godere ancora una volta su quest'onda fantasma. Buon ascolto, Lele Rambelli. brano tipicamente estivo, un brano che fa voglia di ballare, suonare, sdraiarsi sulla sabbia e, perché no, stare con delle belle ragazze, che no, che cappero, sempre uomini. Il prossimo artista risponde al nome di Kammerer e ci presenta un brano che si trova alla quinta posizione di questa fantomatica classifica tratta dai brani più ascoltati su Jamendo. Il titolo del brano è Jump the Wave e noi ce lo andiamo ad ascoltare in allegrezza e tranquillità. Un'altra radio Roma. Ciao, ciao. Senza remore. passa. Note, musiche, ci, senza indugio, senza inganno. Favoloso, lui era Camerer con Jump the Wave. Ed occupa la sua beata quinta posizione dei brani più ascoltati su Jamendo. Bene, fatemi dire una cosa veloce, rapida e indolore. Per tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Spreaker, ci stiamo attrezzando per entrare in onda anche su questa piattaforma, perché ci piace alquanto, ci è stata consigliata, ci stiamo provando da un po' di tempo, è giunto il momento di utilizzare anche questa piattaforma. Mentre per gli amici che ci seguono su Mille Mics, non temete che continueremo a trasmettere anche attraverso questa piattaforma. Comunque, tutti i nostri lavori li trovate su www.nartraradioroma.org. Per tutti gli artisti che vogliono entrare in contatto con i VJ di questa fantomatica web radio, possono contattarci su nartraradio@live.it o direttamente attraverso MySpace o Facebook. E stiamo andando avanti senza indugi e senza inganni verso il proseguo di questa trasmissione. Sono rimaste poche posizioni di questa classifica, che è partita dalla numero 20 per chi ci ha ascoltato in diretta lunedì 16 aprile 2012. Invece per chi ci ascolterà in replica il 20 aprile 2012, sicuramente non sentirà tutte le classifiche, ma una parte di questa. Bene, detto questo, andiamo avanti con l'artista successivo che ci va a presentare alla quarta posizione, DJ Ox con Mac Right Now, e voi siete ancora una volta con me. What don't like whenever you want? Do not wait for tomorrow. Think that you can make it today. Do not wait later. What don't like whenever you want? Do not wait for tomorrow. Think that you can make it today. Do not wait later. Make right now, right now. Make right now, right now. Make right now, right now. Make right now, right now. Na na na na. pirateria, pirateria. Questa sera abbiamo parlato di pirateria. Se per pirateria si intende, appunto, come ci siamo detti all'inizio di questa trasmissione, tentare, cercare di fare un approccio diverso alla problematica, io invito tutti quanti ad essere un po' più scettici delle notizie che vi arrivano, essere un po' meno nostalgici del passato, perché non aiuta. Sì, va ricordato perché gli errori non vanno ripetuti, ma sicuramente bisogna affrontare il futuro in maniera diversa, e posso assicurarvi che in qualche modo internet in questo ci sta aiutando, come è stato per le licenze Creative Commons, che sono delle licenze alternative che permettono agli artisti di poter incominciare senza troppi vincoli, senza troppa burocrazia, senza dover sborsare denari ad esprimere la propria opera, la propria arte. E noi, come Un'altra Radio Roma o altre web radio nostre amiche, siamo lì attenti per lasciare a loro un piccolo spazio. Bene, detto questo, ricordo a tutti quelli che si fossero messi in contatto e in connessione solo in questo momento che stiamo percorrendo i 20 brani più ascoltati dalla classifica di Giamendo di questa settimana, e stiamo entrando nella zona calda. Dicevamo, rientriamo in studio per entrare nel podio dei tre brani più ascoltati su Giamendo questa settimana. Al terzo posto troviamo Clothless di Substan, che ci andiamo ad ascoltare in un fiato solo. Substan con Cloudless alla terza posizione dei brani più ascoltati della classifica di Jamendo. E così, a piccoli passi, pezzo pezzo, siamo giunti alla seconda posizione. Siamo quasi al termine di questa trasmissione e troviamo un artista ancora una volta spagnolo, a dimostrazione che gli artisti più ascoltati probabilmente sul mondo di Jamendo sono quelli spagnoli. Lui è in attività dal 1997, ha una marea di album pubblicati appunto su Jamendo e ha una band virtuale. È spagnolo, risponde al nome di Per Gint Lobogris. Il suo brano più ascoltato si aggira intorno ai 121.000 ascolti, e però ci andiamo ad ascoltare il brano suo più ascoltato di questa settimana su Jamendo, chiaramente. Si intitola Moon Over Calypso. Buon ascolto qui su un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma, la più grossa radio, ti manda su un altro pianeta a caso per il nuovo anno. Thank you. E già, siamo giunti al termine di questa trasmissione, veloce come dei razzi, come dei sapientoni. Abbiamo scalato le vette di quelli che sono stati i brani più ascoltati nella classifica di Jamendo, un sito web veramente veramente interessante, e abbiamo visto diversi artisti provenienti soprattutto dalla Spagna. E andiamo a vedere le ultime 10 posizioni. Le risaliamo: alla 10ª posizione abbiamo trovato Butterfly T, mentre al 9º posto c'era Cinti Bright, all'8º Eve Lane, al 7º Epic Soul Factory, al 6º posto il nostro Lere Rambelli, alla 5ª posizione Camera Air, al 4º DJ Octx, mentre al 3º posto Substan e quello sotto la mia voce Pier Greenit Lobo Gris dalla Spagna alla 2ª posizione. Siamo così quindi giunti all'ultima posizione, ma prima di giungere appunto ad ascoltarci chi è al 1º posto di questa classifica, permettetemi di salutare tutti i miei colleghi, quindi Mr. Cocot, che ho visto e ascoltato in web questa sera, Mr. Brontolo e Mr. Campo, e un abbraccio a Mr. Renton. Le trasmissioni dell'Altra Radio Roma vanno avanti settimanalmente senza mai interrompersi per potervi tenere in compagnia con le dirette il lunedì su 1000 Mics e da oggi anche su Spreaker, mentre il venerdì in replica sulla nostra amica Fuso Radio. Detto questo, andiamo insieme a scoprire chi si trova alla 1ª posizione di questa classifica di ascolti di Jamendo. Lei è statunitense, perdona, giunta al termine di questa trasmissione comincio a bloccare anche la lingua sul palato. È di New York, ha un sito che è www.thebestoftania.com, ha parecchi album, ma del resto ha anche un bel curriculum. Ha scelto di trasmettere le sue musiche attraverso la Creative Commons e ci andiamo ad ascoltare la nostra 1ª posizione, tenendoci tutti stretti sul divano, sulla poltrona o le nostre cuffiette. Ci andiamo a preparare per sentire Crew Love Freestyle. Lei è Tania T6, ve la state per godere. Mi vedi a computer Nastra Radio Roma. Nastra Radio Roma.org. Walk through the club door. Why you following me for? It's a room full of bitches. So what you hollering at me for? This ain't no fucking theme song. So boy, why you rapping wrong? It's 'cause we blooming like a C4. Got my whole crew blooming like a C4. 808s, we keep the shit pumping. We like the whole city best for you from the Bowen. Handful of Swiss boys on GQ and we set the bar high. Oh, you think you're fooling? Follow some of that rose, ain't got a mop and she mow wet. Cameras rolling, flashing like we on set. First class, the elite team jet set. Could be love from room friends to club. Why? 'Cause they loving the crew. They loving the crew. They loving the crew. They loving the crew. They loving the crew. They loving the crew. They loving the crew. They loving the crew. It's 'cause we blowing like a C4. Got my whole crew blowing like a C4. I knew that I would make it 'cause the hustle's in me. That I was destined for stardom. I knew people would start to come around. Never around would wanna reap the benefits of my sound. I understand why you would wanna keep me close though. I'm living large, just spent on a couple grand though. Just made your whole year's salary off a song though. Frontin' spending your rent money to give up though. Groupie bitches, niggas roll with me for the taste. Expensive food and wine, dine out the good life. Opportunists, so they always run with the good life. Ever wonder what a fool on the money feel like? The fame, the fortune, the fashion. The lights, the cameras, the action. I was born to be the main attraction. Music is my satisfaction. Tania T6 chiude così questo appuntamento che è durato 2 ore, è volato attraverso i miei pensieri e abbiamo scoperto un senso nuovo della pirateria. Per non restare incollati alle notizie così come ci arrivano, cerchiamo sempre di pensare e vedere in maniera diversa, sempre più ottimisti verso il futuro. Un abbraccio dal vostro amico Gasperino, qui da Nartra Radio Roma. A tutti gli ascoltatori e ascoltatrici non mi resta che lasciarvi con l'ultimo jingle, l'ultimo nato qui su Nartra Radio Roma, con una simpatica vecchietta NRR, ossia Nartra Radio Roma, e Sterefante. Alla prossima settimana. Nartraradioroma.org. Partiamo. Questi sono sempre i fantasmi. Sotto la nostra voce, sotto le nostre lenzuola, sotto il treno, sopra il treno, sotto il tetto di Nartra Radio Roma. Ci proporrete qualcosa di esterefante? Radio Roma. Esterefante. Mister Controllo. Che ingherino io sto detto. Mi compiaggio. Sto la lingua l'ho lasciata su Marte. Radio Roma. La radio? Dio. Esterefante. Dio.